Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Andare al mare e trovare una libreria. Succede anche questo sull'ultima spiaggia di Capalbio. E poi rassegne letterarie tutte le sere nel borgo medievale con personaggi come Walter Veltroni o Federico Moccia. Come nasce, dunque, la fama di piccola Atene di questo comune? Tutta una serie di intellettuali hanno incominciato a prendere casa a Capalbio, essenzialmente su nel paese. Quindi casa su al paese ce l'hanno persone come Asor Rosa, Marramao. Capalbio Libri è nata sulle persone, cioè quindi il fatto di avere sul territorio d'estate tante persone che si occupano di libri, autori, giornalisti, sicuramente favorisce l'organizzazione di eventi come questi. Sì, noi ci rendiamo molto orgogliosi, anche perché noi abbiamo veramente... È passato qualche anno, era il 2014, però un bel esempio di vacanza infame, passare l'estate a Capalbio, o passare per Capalbio soltanto, per una rassegna di libri. A me un anno capitò, non fu una brutta esperienza, però in quella piazzetta piena di signore abbronzate, piene di signori coi pantaloni al ginocchio, con tante magliette policrome, con tante arremosce, con tanta gente che mi ascoltava, con tanta gente che non ascoltava. Beh, insomma, per me è stato un momento di vacanza infame. Io devo dire che ultimamente, negli ultimi anni, ho solo ricordi di vacanze infame e di estati infami. Visto che oggi è l'ultimo giorno che mi avrete in diretta, almeno per questa edizione, poi Dio provvederà, vorrei dedicare questa trasmissione a quello che in fondo è l'argomento preferito dal mio pubblico, all'elargizione gratuita e totalmente e spassionatamente generosa di libri infami. Il libro infame è una modalità di questa trasmissione originale e, per tanti tentativi di imitazione sono stati, mai raggiunta nel suo fulgore. È una modalità di trasmissione che mi procura un gran dispitto da parte di simpaticissime e gentilissime colleghe, ufficio stampa di case editrici, che ogni volta che mi incontrano mi dicono: ti prego, io ti mando dei libri di grandi autori, appunto di Veltroni, già citato, uno per tanti, ma di tanti altri autori, libri importanti, libri che Fabio Fazio presenta in pompa magna, ma almeno non ne parlare, perché li regali come libro infame? Quello che vorrei far capire alle persone che mi mandano libri, continuano generosamente a mandarmi libri, che il suggello del dono del libro infame è quanto di più gratifica un'opera dell'ingegno. Volete mettere una marchetta fatta da Fazio, che va lì l'autore, mandato dalla casa editrice, con Fazio che sorride, dice che è bellissimo. Volete mettere la impavida allegria del fatto di sfidare il fatto che un libro che è già in libreria, un libro nuovo, un libro che bisognerebbe acquistarlo, comunque sia una persona ne usufruisce, ne gode, con una dedica, in cambio di cosa? Di una facezia. E qual è la facezia che chiedo oggi? È la descrizione di un'estate infame. Io trovo che l'estate sia la stagione più infame, anche se per luogo comune è la stagione del relax, la stagione del divertimento, la stagione già preannunciata nei social network, da signore stese sulla spiaggia, da piedi prudentemente inquadrati perché non si veda il polpaccio o si intraveda soltanto, non ci sia soltanto nemmeno un lontano baluginio di coscia, perché potrebbe cominciare ad essere messa in precario equilibrio la compattezza delle carni che vengono soltanto allucinate e baluginate, di signori con gli occhiali scuri, di gente che comunque in questo momento deve celebrare collettivamente l'allegria, la gioia, l'euforia falsa, finta, ipocrita o comunque egoistica di essere in vacanza, mentre il resto del mondo magari ha le sue rogne, ha le sue micragne, ha le sue dannazioni, ha le sue anguste quotidiane che non scemano soltanto perché le città sono arroventate dal sole. Quindi avete modo voi di chiamare all'800 24 0024 e raccontare il punto di vista infame di questa estate. Avrete in cambio la consolazione di un libro infame. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Quando ci abbiamo ospiti, io sulla mia tavola voglio i pezzi da 90, la posateria Bulgari, che mica stiamo su un gommone qua. Pronto? Ciao Dolce, dove stai? Ancora sta a Roma? Sì, sto a studio. E lo so che è tardi, tesoro mio, ma qui sono partiti tutti. Mannaggia il Ferragosto e chi l'ha inventato. Guarda, sto a pezzi, sono tutto sudato. E chi se ne frega del lavoro? Tesoro mio, molla tutto e scappa. Va bene, dai, sbrigo l'ultima pratica e arrivo. Va bene, tesoro? Ciao, Passerotto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ammazza, che bugiardo che sei. Perché, che gli devo dire? Potrebbe anche capitare come Brignano di rimanere chiuso nell'ascensore, ahimè, con l'amante. Gli amori clandestini. Gli amori clandestini sono quelli che l'estate hanno una sorta di illusione di fulgore. Perché? Perché le famiglie sono gioco forza spezzate dalle vacanze con i figli, qualcuno rimane solo in città, qualcuna rimane sola in città e si ha l'illusione che il mondo sia loro, ma in realtà non è così, è un'illusione ancora più dolorosa quando poi tutto ritorna alla normalità. Quindi l'estate è infame anche per gli amanti. Per chi altro è infame questa estate? Descrivete la vostra estate infame, avrete in cambio un libro infame chiamando l'800240024. Francesco, buongiorno. Primo. Buongiorno Nicoletti, l'ascolto da molto in macchina. Ho 28 anni, chiamo da Siena. Beh, se ha 28 avuto... anni non mi ascolta da molto, perché io... Ma da una decina d'anni, perché mia madre l'ha sempre ascoltato e io ascoltavo la radio. Lei pensi che io parlo alla radio da 35 anni, quindi parlavo che ancora lei non era nemmeno in una sorta di potenziale atto d'amore tra i suoi genitori. Nemmeno un pensiero. Nemmeno erano fidanzati, può essere 35 anni fa. È possibilissimo, sì. E lei pensa, in potenza lei non esisteva. Beh, le dica allora. Sono state molto simili. La prima, a 17 anni, il giorno del mio compleanno mi ruppi il polso, che cade di maggio, e passai 3 mesi d'estate col gesso. Ma quella l'ho potuta gestire perché ero giovane. La seconda volta, l'anno scorso, spostandomi a Siena per lavoro, il 13 di giugno mi ruppi il calcagno e passai 3 mesi in una città che non conoscevo assolutamente, perché io sono bergamasco, difficile in cui muoversi con le stampelle, sempre con questo gesso, praticamente l'ha passata a letto. Quindi lei pensa che l'estate c'è una sorta di predestinazione, lei si spacca qualcosa quando è estate? Io mi rompo qualcosa e la passo non potendo fare tutte le attività che si comportano. Ma lei non potrebbe magari fare un proposito? Cioè, io l'estate faccio le cose che faccio tutto l'anno, perché può esserci una sorta di nemesi che le impedisce di fare ciò che lei vorrebbe fare l'estate. Lei pensa che l'estate fa le cose banali e quindi non si rompe, forse? Sì, forse dovrei vederla così. Uno psicanalista direbbe: sei tu che ti fai del male perché vuoi punire te stesso per darti della gioia. E quindi alla fine io le voglio fare un regalo, le regalo un libro che le sarà senz'altro molto utile e senz'altro in questi momenti, probabilmente, visto che si prova tutto e si prova anche l'ultima chance, il fantastico volume editore Meridiano Zero, primo sudore nel collega Ufficio Stampa, Jean-Louis Fournier, Io Dio. Non so cosa significa, ma in senso le leggo la quarta di copertina. Gli inventerò i sensi di colpa, dice Dio, perché il senso di colpa dà il tormento e impedisce di dormire. E come farete, chiede San Pietro, farò credere agli uomini che è per causa loro che mio figlio è morto. Ecco, vede, lei si romperà ogni estate per senso di colpa, leggerà questo libro e capirà che è un problema che colpisce un po' tutta l'umanità. In bocca al lupo, Francesco, alla prossima estate. Sano, spero. David, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti. Allora, qual è la sua estate infame? E avrà in cambio un libro infame, che le assicuro questa volta la farà felice. La mia estate infame è passarla nel mio ristorante, dove faccio finta di essere uno dei tanti vacanzieri, ma in realtà io sto lavorando, quindi faccio 3 tavoli sorridendo e facendo finta, insomma, che anch'io sto passando un'estate fantastica come la passo loro. No, mi spieghi la tecnica per fingere di essere cliente quando in realtà sei ristoratore? Come fa? Si siede ogni tanto, mangia qualcosa, poi si alza e fa finta, diciamo, che il ristorante funziona un po' da solo, io sto lì a controllare se tutto va bene, se serve, quindi sto seduto all'ora di cena, guardo, vedo, controllo e poi verso tarda notte, insomma, poi faccio il resto, insomma. Quindi verso la decina sto sempre lì, quindi tanta gente in calzoncini e ciabattine, tedeschi, pure francesi che stanno là, mi guardano. A volte sto anche solo, quindi dico, non so, questo è un signore che è andato in vacanza da solo. E niente, quindi passo. Beh, però la sera prende il malloppone e se lo porta a casa, alla fine c'è un vantaggio. Sì, c'è un vantaggio, poi sottratta le spese, il vantaggio è il sacrificio alla fine, quindi va bene, è tutto rapportato. Passare quindi per l'estate... lei l'estate comunque è un mese di sacrificio, deve sentire la puzza dei piedi di ascelle dei tedeschi che vengono lì con le ciabattine e i pantaloni corti, alla fine è tutto più difficile, la roba si conserva male... Ma anche se i dipendenti che in realtà vorrebbero andare in vacanza, quindi pensano che io sto in vacanza perché sto lì e sto seduto nell'ora nell'ora di cena, del pranzo. Ma perché tutti pensano che sia così indispensabile andare in vacanza? Anche questo mi viene a pensare, uno non può andare in vacanza a gennaio, a febbraio, dal 10 al 15 aprile. Perché c'è stato incuccato fin da scuola che d'estate si va in vacanza. Si tanto perché... bene in città, non c'è nessuno, è una bellezza, mai è stata così bene in città. Però non vorrei che fosse un discorso di vorrei ma non posso, e quindi devo dire che in qualche maniera forse una maniera è un modo per supplire al suo stare comunque alla cassa, guardare gli altri che mangiano, che digeriscono, che ruttano, che bevono la birra. È un volumetto dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che è utilissimo, Felicità in questo mondo, un percorso alla scoperta del buddismo e della Soka Gakkai. Lei si mette lì, si dice il suo mantra, guarda gli altri e spera che arrivi Buddha e le faccia vivere un po' meglio. Credo dirle, questa è una mattinata un po' mistica, devo dire che oggi a me gira tanto, ma veramente tanto. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. L'ascolto. Estate infame in cambio di un libro infame. Allora, mia estate infame sarà penso la prossima, perché mia moglie, io premetto, ho una bimba di un anno e mezzo, piccolina, e mia moglie è già un problema. Moglie incinta. Sì, quando, moglie incinta. Quando partorisce? Quando partorisce? I primi di agosto partorirà praticamente la vigilia delle ferie, partirà bellissimo. Il secondo bimbo. Un caldo terribile, con i bambini che strillano e urlano, perfetto. Bellissimo. Lei mi ha anticipato, capirà come passerò le mie ferie. Che bello, sa perché? Perché il contenuto dei pannolini che lei dovrà cambiare a profusione dall'1 al 15 agosto, con questo caldo fermenta in maniera ancora più veloce. Lei non potrà nemmeno metterli nel cestino della spazzatura a casa. No, lei vivrà in un letamaio, ma sarà felice, avrà un bel bambinello, no? Beh, ecco, allora sì, c'è ovviamente il sangue del tuo sangue, quindi praticamente cancella ogni difficoltà, sì. Se vogliamo. Però comunque diciamo che all'atto pratico le ferie canoniche di agosto, del Ferragosto, quelle dell'italiano fantoziano, diciamo così, quest'anno saranno passate a casa. Lei ha aria condizionata a casa? Ha un condizionata è perennemente accesa sui 19, ma al di là di questo... A Netflix. A casa? Scusi? Netflix ce l'ha? Beh, lasci perdere, il televisore è impossibile accenderlo praticamente quando tu hai un bambino che ogni cosa che te la prende te la mangia, perché quello di un anno, è vero, il telecomando è già mangiato, cioè non televisore. No, sto pensando una maniera per dare sollievo a questa, la moglie sarà fuori uso, ma giustamente si rimette fuori un attimo, uso, poverina, deve starle vicino, non ci può cosa, contare. No, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, l'unica cosa è l'unico diciamo dubbio è la suocera sarà a casa le auguro di no sinceramente. Speriamo. Lagunino, perché guardi, è meglio gestire da solo questa situazione che gestire anche una suocera che le dice quello che deve fare. C'è un qualcosa di più infame di questo? Guardi, io ci sono passato, perché un figlio mi è nato, diciamo, a luglio, più o meno è nato il 9 luglio, quindi eravamo abbastanza vicini. Le devo dire che è stata un'estate abbastanza perigliosa, ma da ricordare, molto meglio di queste meste solitarie, asfittiche estati, andare in giro la sera per locali dove fanno aperitivi, ci sono signore con lunghi tacchi in cerca di maschioni con il segno bianco della fede, con le camicie bianche per sembrare ancora più abbronzati, che stanno lì, fanno i provoloni, sperando che magari l'intima d'azione possa rallegrare queste loro meste serate. E quindi a lei le do un libro che veramente, ecco, questo bello, è il più bel libro, no, questo non posso dargli, è troppo bello, le do questo, Nadia Busato, una storia erotica, gioca con me. Lei adesso avrà un periodo in cui sarà molto occupato con cose che nulla hanno a fare con l'erotismo. Questo libro di Nadia Busato, che è un'amica, c'è in copertina le gambe nude dell'abusato dal ginocchio al piede, le guardi e si faccia venire in mente mesti, ricordi lontani, in bocca al lupo per il bambino e per la bambina. Mauro. Ah, Luca. Buongiorno. Luca è morto. Mauro, sono io. Oh, salve. Mauro, oh, benissimo. Estate infame. È infame, veramente infame? Questa è un'estate piuttosto infame, devo dire la verità, perché da metà giugno fino a fine luglio sarò praticamente single, sono tornato single. Vabbè, e quindi... è un vantaggio, scusi, sta tranquillo. Aspetti, sono tornato singolo perché la famiglia è andata dai nonni, cioè dai genitori della mia compagna, a Santo Domingo, e mi mandano tutte le foto più belle delle spiagge meravigliose, delle cose fantastiche dove vanno a vedere i coccodrilli, vanno a vedere tutte queste cose, le balene, e io invece sono a testa bassa sul lavoro dalla mattina alla sera con una voglia infame di fare chissà cosa, e invece alla fine poi arriva tardi, arriva sera, stanco morto, e il gruppo delle abitudini che ho legato al piede mi costringono a fare quello che faccio comunque sempre quando sono in famiglia. Mauro, e quindi vado rivedo... a letto. Mauro, posso dire una cosa? Rivedo in lei non un ascoltatore, ma un fratello di vita, perché è esattamente quello che sono state le mie ultime estati. Si lavora, il resto del mondo dei consanguini, grazie a Dio, se ne sta al mare, ti mandano foto continuamente. Io personalmente non li invidio, perché non mi piace stare in spiaggia, quindi sono felice che stiano bene, più lontano stanno meglio sto. La giornata di lavoro è abbastanza intensa, perché uno lavora di più l'estate, ha più tempo, non deve correre a casa, non c'ha gli appuntamenti. Se arriva la sera stanchi mortici, adesso tutta vita, e poi dice vita di che fai? Boh, non so. Non fai niente, cioè, guardi, le dico la verità, io penso siano anche 15 giorni che non accendo neanche il televisore, perché comunque perché poi tra l'altro questa è un'estate molto particolare per me, perché per il progetto che ho in piedi con il lavoro praticamente sono costretto veramente a fare ore di straordinari, e quindi tutto si è accavallato e incastrato quest'estate, e veramente, allora dall'altra parte la mia compagna, che devo io per solidarietà fargli capire che sono felice per lei, che è a casa della sua famiglia. Certo, che mica può fare la vittima, no, quello è pessimo. No, certo, mai, no. Però poi, per esempio, ecco, il primo film che ho visto, che ho pianto tutta la sera, è stato ieri sera che ho visto su Sky Pelé. Il film di Pelé, no? E allora, l'ha fatta piangere. Il bambino, il figlio che cresce, no? Tra l'altro, ecco, una cosa che veramente mi manca è il mio adorato bambino, mio figlio che ha 11 anni. Vabbè, guardi, però... si consoli, vedo che ormai lei ha ancora un così forte e tenace imprinting familiare. Avrei dei suggerimenti da poterle dare, ma sarebbero meschini, sarebbero del tutto deleteri per la compattezza della fede che la lega alla sua famiglia. Quindi continui a lavorare, si stanchi bene, come dicevano i salesiani, correte, faticate, stancatevi tanto, così manterrete la vista, e anche lei manterrà la sua vista, visto che le piace il cinema. Le regalo il libro infame di Ronny Pizzo, Panni sporchi a Cinecittà, scandali, misteri, amori e dolori della Hollywood italiana, editoriale Olimpia. Ci fermiamo un istante, alla prossima. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Oggi assegniamo libri infami in cambio di mesti racconti di estati infami. Perché faccio questo? Perché trovo che nessuna estate fu più infame di questa ultima estate, ma questo è un crescendo autobiografico, però vedo che, confrontandomi con il mio pubblico, non sono il solo a pensare sia un'estate infame, ma lo dimostra anche il fatto che le città siano piene. Roma sembra Roma il 28 febbraio, non sembra Roma il 12 luglio o l'11 luglio, non so mai nemmeno quale sia la data. Quindi evidentemente l'infamità è data dal fatto che molti vorrebbero, non possono, o molti possono ma non vogliono. Io sono quelli che potrebbe ma non vuole. Silvia, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, finalmente una donna che mi racconta il lato femminile dell'infamità estiva. Assolutamente d'accordo con te sul fatto che l'estate è la stagione infame per eccellenza. Beh, non c'è stagione peggiore, vero? Sì, assolutamente. Pure questa, cioè, pure potendo partire, io non vorrei trovarmi su una spiaggia appiccicaticcia, nuda, davanti a altre persone nude, non la capisco. Vabbè, questo questa cosa può avere anche però dei lati positivi, non Silvia. Posso. È la promiscuità collettiva in una spiaggia, nell'essere nudi, sì, davanti so, a persone non, nude. Non ci trovo alcun piacere. In cosa provi non piacere? questa frenesia delle persone, Silvia, che vengono dall'al mare. Cosa proveresti piacere? Allora, innanzitutto mi piace il punto di vista femminile. L'uomo solo d'estate si autodefinisce e comunemente viene definito uno sfigato. La donna sola d'estate che non accetta questa sorta di cicaleccio tra le amiche, tra le colleghe, che inizia praticamente il primo marzo, dove vai, brava, prenoti sì i biglietti e ti gente che va al mare, spiaggia da maggio per sì, avere figurati una abbronzatura integrale, ecco, cose del genere. Che poi ti raccontano, sai, amiche fanno foto con uomini che le baciano, quanto mi sì, annoio. Sì, l'estate si svegliano tutti tutti gli ormoni. Sì, tutti gli ormoni, sì, infatti, sì, tutti. Sì, sì. Improvvisamente diventano tutte vogliose, sta tutto l'inverno, dai facce terribili. Per me è il contrario, per me bisognerebbe scambiarsi effusioni da ottobre fino a maggio. Certo. E poi la stagione estiva no, è ascetismo. Stagione estiva, e... ma che, a casa chiusa, aria condizionata palla davanti ai aria telefilm. Aria condizionata telefilm, palla, assolutamente, Margarita. Telefilm, film. Vabbè. Però purtroppo questo non si può fare. E allora che farai? Che farai? E allora che farò? Lavorerò come una pazza e aspetto che finisce. Però va ti bene. Ascoltano. E stai sola dove? In quale città d'Italia? Roma. Va bene, Silvia. Se vogliamo unire non le solitudini, molti la verità, sarebbero non sono contenti. Sola, Non sai perché, chi c'hai? Fidanzato. Guarda, l'ascoltatore che ti ha chiamato prima, David, purtroppo è mio marito. Tuo marito? Purtroppo è per fortuna. No, non vale. Allora, non avrei il libro infame. No, non si può dare a moglie marito. Punisci così per la mia genità, certo, ho detto certo la verità. Doppiamente aspetta, punita. Abbiamo la separazione dei beni, quindi che non dice dire? Niente. O vi so separate. Che guadagna lui, non è che... Cioè, il libro che ha preso lui se lo leggerà lui. Io voglio il mio libro infame. Ma lui ha millantato non dicendo c'è una moglie accanto che amavate insieme. Veramente, va contro la mia coscienza. Devo mantenere la mia infamità. Non sarà veramente infame, Gianluca. Guarda, certo, questa cosa veramente certo mi spiace. Non dovevi dire che era tuo marito. Non dovevate chiamare insieme. Non dovevate millantare due stati infami quando vi terrete nella manina. Andate a fare le passeggiatine. Perché so che faccio. Allora ha detto, vabbè, adesso chiamo anch'io. Lo voglio pure il mio libro infame. Eh sì, ho capito, ma non te lo posso dare, chiaro. È il marito, vabbè, ancora lì. No, non si può fare le cose matrimoniali, mi dispiace. No, anche perché non è infame la vostra. Siete una sorta di società delinquere per estorcere libri infami. Vabbè, dai, visto che proprio... Volevo dire che io mi sono resa conto che l'estate è la stagione infame quando ero una piccola adolescente, in cui praticamente, appunto, come dicevi te, programmavi estate folli, partire con le amiche, interrail, zaini, invece... viaggi, e invece poi mi toccava sempre o lavorare per guadagnarmi due soldi, o starmene a Roma con le zanzare. Vabbè, adesso, siccome me oppure insomma magari fare compagnia alla nonnina che stava da sola, avere pietà, insomma, la che ti dispiaceva rimanevi con lei. Basta, basta, fine, piccola fiammiferaia, Cenerentola, povera derelitta, starete lì nel vostro attico e superattico, te e il tuo marito, a fare niente, a farvi due spaghi serali pieni di amici, di vino ghiacciato, di leccornie, farete cose innominabili che non si possono dire alla radio. Però beccati sto libraccio, a piedi da Roma a Bari, tutte le strade portano a noi, Alcide Pierantozzi, questo è il libro che cerchiamo di appioppare da almeno 3 anni e oggi te lo pigli te e con tuo marito felici leggerete l'uno da una parte, l'uno dall'altra del vostro caldo talamo coniugale, a meno che non abbiate l'aria condizionata. Vai, Nello, buongiorno. Buongiorno, Nello. Buongiorno, complimenti. Le volevo raccontare una mia estate infame di anni passati. Arrivati in Sardegna in ferie il 1° di agosto, il secondo giorno si va a fare una passeggiata con gli amici e riesco a procurarmi una distorsione multipla alla caviglia del piede. Vabbè, diamo. Quindi lei della serie degli infortunati estivi. Guardi, l'estate il numero di operazioni della mia vita sono al 90% tutte scaglionate fra luglio e agosto, quindi succede, lo so. E il secondo giorno, niente, si va al pronto soccorso, mi fasciano, il medico chiaramente mi dice assolutamente tenerlo al caldo, quindi non possibile fare, non era possibile secondo lui fare il bagno. Io andavo in Sardegna per fare pesca subacquea, era un problema. Allora si va in farmacia, ci si acquista un bel cartone di Lasonil, si metteva Lasonil sulla caviglia, una borsa di plastica tutta scocciata, la pinna modificata, e si faceva ugualmente pesca subacquea. E lo avvolgeva tutto di Domopac, cose del genere? Sì. È una cosa orrenda. Sì, però sembra che lei avesse una piaga tipo di quelle bibliche, perché se la vede qualcuno entrare in acqua con quella cosa lì pensa che c'ha un bubbone purulento infetto, esatto, e nessuno fa il bagno. Esatto. Sì. Però se noi ci andava a fare la pesca al mattino presto, per cui non c'era nessuno in giro. E i pesci non sentono l'odore di carne putrefatta e non scappano. Dopo un paio di giorni che si faceva questa pratica, il piede è cominciato a gonfiare, non bastava più il Lasonil, inizia a fare male, gli dico al mio amico, accompagnami all'ospedale di Olbia. Cioè ha rischiato un'amputazione lei per questa facezia di andare a fermare? Quasi, ma non finisce qui. Io avevo la Lancia Beta HPE, quella molto lunga, col cofano posteriore appuntito. Sì. Il mio amico alza il cofano, mi prende nel nella testa e mi rompe una venetta schizzando. Mi viene da vomitare, fermo lì, basta, non vado avanti. No, scontina, ha un gusto della putrefazione, del macabro. Le regalo un libro di Adele Grisendi, Non è te che sceglierò, romanzo Rizzoli. Mi spiace per la Rizzoli, ci è toccato quel libro anche la Rizzoli. E vabbè, ogni tanto ci vuole qualcuno. Si erano un po' lamentati, cioè perché i nostri libri sempre come libri infami. Questo signore, che probabilmente avrà amputazioni multiple per tutta l'estate fino a settembre inoltrato, almeno un bel romanzo per potersi consolare. E andiamo a Filippo. Sì, pronto? Chiamano solo maschi, benissimo, 800240024. Fa piacere che l'altra faccia della luna passi fantastiche estati e non nulla di infame da raccontarmi. Allora, Filippo, dai. Buongiorno, salve. Intanto complimenti per la trasmissione. Io, al contrario di molti, la seguo da pochissimo. E quindi è ugualmente soddisfatto. Sto molto apprezzando. E quindi conosce soltanto la punta dell'iceberg. Comunque, la punta, assolutamente. Vabbè, c'è chi sa contento. Io porto la mia esperienza non dell'estate corrente, ma delle ultime due estati, sì, in cui ho avuto occasione di fare animatori in un villaggio turistico. E quindi, come puoi immaginare, mentre tutti fuggono dagli stress quotidiani e si rifugiano nei villaggi vacanze, l'animatore deve, come dire, ammortizzare le frustrazioni che si sfogano nei vari minigiochi in cui comunque lo spirito competitivo emerge, e assorbire tutte questi sfoghi e passare così la sua estate lavorativa assorbendo quelle che sono le noie e gli sfoghi di altri. Vabbè, però si chiama gentile organizzatore, così fa quello, deve organizzare il tempo degli altri, essere allegro, felice. Per qualcuno è un incubo avere l'animatore vicino. E quindi lei alla fine non vede l'ora che arrivi l'inverno, o lavora anche l'inverno in luoghi di vacanza invernali? No, è stato fortunatamente un lavoro che ho fatto per pagarmi gli studi, ora gli studi sono terminati, quindi ho iniziato un'occupazione più stabile, meno stagionale. Però ecco, per due estati, dopo gli anni della gioventù in cui invece l'estate era il momento agognato, si poteva riposare dalle fatiche scolastiche, per qualche anno l'estate è stata quel momento in cui si doveva mantenere il sorriso nonostante. Beh, guardi, appunto, c'è gente che d'estate deve asfaltare le strade alle 2 di pomeriggio col bitume bollente, tutto sommato palpare il culo alle signore con la scusa di fargli fare l'aerobica non è proprio una cosa da buttare via. Il libro dei sogni per conoscere il significato delle immagini, della vita onirica e trarne indicazioni per il futuro. Grandi tascabili economici, Newton Compton. Se lo porti a casa e pensi che c'è sempre di peggio. Allora, Salvatore invece, Salvatore. Salvatore, l'ascolto. Salvatore, sì. Allora, sono Salvatore, faccio il portiere di un hotel. Da dove telefona, Salvatore? Dal imbuto? Dal viva voce? No, ma che telefono ha un viva voce? Auricolare? Non si sente niente, Salvatore? Ecco qua. Avvicini un pochino, ecco, faccia questo sforzo. Monza. Da Monza. Allora, faccio il portiere in un motel, quindi io, come l'anno scorso, anche quest'anno, per tutto il periodo estivo sono lì. Praticamente. Ma motel di che tipo? Quei motel sull'autostrada, lungo il raccordo? Sulla superstrada appena a nord di Milano. Quindi soltanto ospiti occasionali, camere a ore, cosa affittate? Esatto, camere a ore, 4 ore 40 euro per intendere. 4 ore, 10 euro all'ora praticamente. Esatto. Ma poi le cambiate le lenzuola o rimangono quelle di quello che è venuto no, prima? No, si cambiano. Quindi lei vede di tutto. Mi dica la fauna che passa nei motel. Naturalmente cambia la clientela in questo periodo. E l'estate chi viene l'estate? Come? Chi viene l'estate a usare le camere a ore rispetto all'inverno? Come cambia? Allora, quelli che di solito vengono non vengono più, ma vengono quelli che praticamente hanno l'occasione. Io c'è fantastico sopra. No, ma facciamo così, poi hanno capito chi viene. Allora, come sono assortite queste coppie? Ci sono tutte le fasce d'età. Naturalmente, quelli che sono giovani sono fidanzatini. Quelli che hanno. E beh, poi fidanzatini vanno. Vabbè, perché non hanno un posto dove andare, vanno a farsi quattro ore del motel. Vedo i documenti. Il stesso documento c'è scritto coniugato con, hanno la stessa età. Nella mia immaginazione lavorano insieme. Certo. E questa è l'occasione buona per quello che hanno sognato da tempo e via. Certo, però non è molto rassicurante pensando che uno si va a fare una trombata in un hotel a ore e c'è anche chi collazione e documenti e detto si è sposati, roba anni 50. Sai, vabbè, avere discrezione così, fa finta di niente, la gente si complessa. Non deve far capire come siete marito e moglie, perché magari non, è raro che vada marito e moglie in un motel a star 4 ore, a meno che non vogliono farsi venire una fantasia. E poi diciamo, ma in questa stagione chi sono? Gente in ufficio che naturalmente hanno mariti, esatto, mariti e moglie in vacanza, gli danno sotto. Esatto, ce ne sono parenti che sono questi, praticamente non sono i clienti abituali, poi come arrivano, da che parte vado, ma devo dare i documenti, ma le registrate, ma cosa fate? La donna è sempre tranquilla, l'uomo invece ha paura. Perché la donna probabilmente è single, alla fine lei che gliene importa, l'uomo è sposato, quindi lei dice pazienza, che vuol dire, sarà un altro in più, un altro in meno l'uomo. Vabbè, guardi, questa testimonianza veramente pregnante mi dà senso di quelle che sono le derive sottili, le strade imperscrutabili e degli amori clandestini anche in estate, mi permette di darle un libro veramente interessante, di Lord Bea Verbruck, Un nazista sul trono d'Inghilterra, l'abdicazione re Edoardo VII, prefazione Giorgio Galli, che è un esperto storico dei vari periodi, ma soprattutto di questo periodo qua, legato appunto fra le due guerre e il fascismo. Quindi se lo legga e faccia un po' meno caso alle persone che vengono a consumare clandestinamente nel suo motel, perché sa poi crea problemi che uno se li porta dietro per tutta la vita. Ci sentiamo tra un istante. Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, questa mattina, ultima mattina in diretta a Melog, io do libri infami in cambio di racconti di vacanze infami, ma soprattutto di estati infami. Stavo notando con l'esimio professor Fabrizio Intonti, che ripeto tutti i giorni è qui accanto a me a fare questa trasmissione, anche se spesso mi scordo di citarlo, quindi non posso che ringraziarlo, assieme al professor Rocchetti che mi mette in onda tutti i giorni, e il professor Chiappini in vacanza con le chiappe al sole, quindi in questo momento non lo saluto. Devo dire che rimango abbastanza perplesso del fatto che chiamino soltanto uomini. Questa è una fascia di ascolto che era abbastanza infarcita di attento e scurrile pubblico femminile, che dava quella sorta di elemento di movimento a questa trasmissione. Dove sono le donne? Le donne probabilmente sono tutte in vacanza. Mi fa piacere pensare che rimangano questi uomini soli, questi zitelloni da arze, città estive, e si sfoghino chiamandomi in cambio di un libretto infame, mi danno il fardello della loro mestizia. Umberto, buongiorno. Ciao, buongiorno, Umberto da Napoli. È infame questo momento per te? Sarà domani la partenza. Dove la vai? Partenza. In cantiere. Ah, lavorare domani. E oggi perché non lavori? È tutta la preparazione per partire. Ah, ecco, va bene. E andiamo in cantiere, andiamo per 3 mesi e mezzo all'incirca. Stabilimenti estremamente caldi, combattiamo con i nostri 38-40 gradi all'interno. Ma che tipo di lavoro fai te? Cantiere di cosa? Sono geometra. Stabilimenti che fanno produzione di vetro. Ah, quindi il vetro, penso che il vetro è una cosa caldissima a produrlo, quindi col caldo figurati, no? Sì, assolutamente. Poi il vetro riflette calore, quindi è un girone infernale praticamente. Diciamo che la temperatura esterna e la temperatura interna è di poco diversa, ma lì comunque si è a contatto con fonti di calore terribili. Quindi si suda. Suderai tutto il giorno, stai in mezzo detriti di vetro, fornaci da cui esce vetro fuso, taglierine di vetro, schizzerà il vetro dappertutto, ti taglierai tutto. E poi la sera che fai? Alla sera si torna a casa a riposare. Beh, tutto pieno di cocci di vetro, sarà terribile, no? No, si lavora in sicurezza, le giuste protezioni. E quindi questa sarà tutta la tua estate. Senti, ti regalo quello che era, diciamo, il boccone del prete, che era il miglior libro che avevo, naturalmente, che è un libro di pregio, è un libro che tutti avrebbero voluto avere. In questo momento lo sto esponendo alla telecamera della mia diretta su Facebook. È il libro Tempesta di Lili Gruber, editore Rizzoli. Guarda che è un libro veramente bello. E dietro c'è anche la foto della Gruber che ti guarda. Tu puoi anche togliere la sovracopertina e attaccartela dietro il vetro di del tuo ufficio in cui tratti vetro e pensare che dietro quel vetro ci sia lo sguardo sognante di Lili che ti guarda e si tiene la mano appoggiata al mento, mesta così, in una posizione meditativa. Buon vetro, ciao. Walter. Pronto? Walter, sì. Sì? Ti ascolto, Walter. Ah, buongiorno. Ma dunque, la mia estate infame a memoria, che mi ricordo, è di un po' d'anni fa, un po' datato, una cinquantina d'anni fa. Perché adesso sono belle le tue estati? Beh, direi sicuramente meglio, sicuramente. Quindi meglio, hai toccato il fondo 50 anni fa, era la cosa peggiore che ti potesse... E dove stavi? Mi ricordo. Dove è passato quest'estate terribile? Allora, ero un ex seminarista, per cui niente nuove compagne, nuove amicizie, niente ragazzina. E com'è l'estate in seminario? Perché cosa si fa in seminario? Stati in seminario, ma oddio, c'è una parte abbastanza piacevole, nel senso che in genere ci portavano un mesetto in montagna, a Gran Paradiso, insomma, due mesi, due mesi e mezzo dovevi arrangiarti seguendo determinate regole, niente piscina, niente frequentazioni strane, niente ragazzine, eri seminarista e ragazzine non potevi, se no non facevi il seminarista, facevi un altro lavoro. Bravo, infatti se ne sono accorti, ma mi hanno detto che forse era meglio che riflettevo sul mio futuro. Perché a te piacciono le ragazzine invece dentro il seminario? Allora come adesso, adesso magari mi piace mia moglie, però allora come adesso è chiaro che... Perché avevi deciso di fare il seminarista? Lì dentro... È stata un'induzione familiare. Ti hanno costretto i tuoi a fare... No, non è possibile. Praticamente sì. Cioè i tuoi genitori hanno detto ci vogliamo un figlio prete e tu sei andato lì. C'è un risvolto un bohemien. Siccome in seminario c'era chi mi pagava la retta, perché io vengo da una famiglia proletaria. Ah beh, però almeno potevi studiare. Esatto, bravo. Infatti, guarda, io ho fatto il liceo dei Salesiani, anche allora, ti parlo degli anni 70, c'era una porzione di miei compagni di classe che venivano dal seminario, ma se ci parlavi dicevano ma che io manco morto fare il prete. Dico, lo faccio perché almeno studio, mi prendo la licenza e poi al diavolo i preti. Quindi meriti anche te un bel libro infame, Martiri per amore. In realtà parla di un eccidio nazista, ma il titolo riassume il tuo martirio, che per amore della tua famiglia hai provato a fare il prete, ma dopo tante estati in cui non c'era nemmeno un prete per chiacchierare, come dice Celentano, hai pensato bene che è meglio passare un'estate infame ma fuori dalle mura del seminario. Vabbè ragazzi, in bocca al lupo, buona estate. La mia non sarà un granché, ma la vostra spero sia migliore. Alla prossima.